Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Canonico Pirri rimestava la brace con un lungo attizzatoio. I ricordi che lo assalivano gli imperlavano la fronte di sudore, perché la vecchia non era rimasta a piangere il morto, ma era corsa su anche lei a cercare il testamento. Lì per lì tacque per paura, ma dopo l'interro cominciò a spargere la voce che c'era una copia del testamento, sia pure non firmata, e che molti occhi avevano visto sul tavolo quella busta. In breve, tutta Nuoro fu piena della storia della cravatta, e a Nuoro non c'erano solo pastori, c'erano autorità, e c'era quella costruzione rotonda che dominava il paese e che i Corrales conoscevano bene, perché vi avevano passato molti anni della loro vita e avrebbero dovuto restarci per sempre. L'arciprete vedeva il fango salire fino alle sue ginocchia, perché tutto si può fare: rubare, rapinare, anche uccidere, ma strozzare la volontà di un morto, no. Se questi suoi nipoti avevano il male nelle vene, egli doveva esorcizzarli. Li aveva chiamati uno per uno. Li aveva minacciati che avrebbe lasciato tutto il suo alla chiesa. Si era fatto consegnare il testamento. Allora aveva chiamato la vecchia e le aveva detto: «Cosa sono queste voci che vai spargendo?» «Sono la verità», aveva risposto la serva. «Il testamento l'ho visto io, coi miei occhi, e ne ho la copia non firmata». «Beh, mettiamo che sia vero. Mettiamo che tu provi quanto dici. Che cosa credi di guadagnarci? Le imposte ti mangeranno tutto, a parte la giustizia». E le fece un conto di quanto le sarebbe costata quell'impresa disperata. Poi, guardandola fisso negli occhi, ed erano sempre gli occhi di un Corrales, anche se vestito da prete, «senti», disse, «tu sai il bene che ho voluto a Mario Buonanima. Parlo come se fossi lui. Non sarebbe meglio», e qui una lunga pausa, «che tu lasciassi che i beni vadano come devono andare e ti prendessi al loro posto quello che valgono? Io ho fatto il conto, sono 200.000 lire che ti verrebbero pagate subito». 200.000 lire, ripeteva. «Con queste tuo nipote potrebbe anche trovare un buon posto in continente e non avrebbe da andare per le tanche, che non è cosa per lui. Pensaci bene». La serva pensò subito che non c'era da pensarci con quelle caute parole. E così, senza uno scritto, come nel confessionale, i Corrales diedero del denaro per la prima volta nella loro vita, anziché prenderne, e il bastardo sparve da Nuoro. Ma le tanche restarono in famiglia e zia Luisa pensò che quella di Lardine, tutta unita, sarebbe stata la più bella tanca di Nuoro, anche se lei non l'avrebbe mai vista. Ma Canonico Monni e Canonico Pirri, per quanto il vescovo andasse a trovarli una volta la settimana e tenesse in gran conto il loro consiglio, erano ormai estranei alla chiesa e i loro stalli nel coro dietro l'altare maggiore restavano coperti di polvere. Il padrone della curia, destinato a diventare arciprete quando Pirri sarebbe morto, era Canonico Floris, un uomo gagliardo quanto Monsignor Canepa era fragile, e perciò faceva il bello e il cattivo tempo, non disdegnando la vita mondana, perché frequentava la farmacia e qualche volta si sedeva anche ai tavolini del caffè Tettamanzi. Egli era anche il cerimoniere nelle funzioni sacre, il regista, si direbbe oggi, perché disponeva degli altri canonici e dei preti come di burattini quando si celebrava il pontificale, e lo stesso vescovo si muoveva secondo il suo cenno. La sua voce di baritono si librava sulle navate, restava immobile sulle teste chine dei fedeli, prima di disperdersi nel cielo azzurro di Nuoro e arrivare a Dio. Gli altri canonici lo odiavano, ma sentivano la sua superiorità. Nessuno del resto avrebbe saputo fare quel che faceva lui, neppure canonico Fele, il dotto della diocesi che già conosciamo, il rettile, come lo qualificava l'aspirante arciprete, perché camminava allampanato sfregandosi sempre le mani ed era sospettato di essere l'autore delle lettere anonime che arrivavano al vescovo e qualcuna pare fosse giunta fino a Roma. Egli si era assunto il compito di visitare le vedove ricche e aveva procurato alla Chiesa qualche buon testamento, il che gli dava parecchi punti sugli altri colleghi, i quali del resto si mantenevano neutrali tra i due rivali, paghi del cordone rosso che pendeva dal cappello e dell'ermellino che li distingueva dalla plebaglia dei preti. I sei o sette preti costituivano una specie di quarto stato. Poiché non c'era che una parrocchia, vivevano praticamente di elemosine. Qualcuno aveva un campicello che continuava a coltivare, ma i più soffrivano la fame e se non l'affogavano nel vino, la saziavano di odio contro i canonici. Prete De Lussu se la passava meglio degli altri, perché era addetto alla Chiesa del Rosario, dove si fermavano i morti prima di arrivare al cimitero. Ma quello, come diceva il nome, era di origine continentale e aveva un buon carattere. La sera, dopo la magra cena, si udiva in tutto il quartiere un tocco di campana. Non era qualche morto che si fosse attardato o fosse tornato sui suoi passi. Era prete De Lussu che avvertiva il fratello, il quale abitava di là dalla piazza, che la bottiglia era pronta sul tavolo per la silenziosa sbornia in comune. Il prete nero, quello che viveva nel fondo di Seuna e non mangiava mai, primo perché non ne aveva, poi perché aspettava con ansia il giorno del giudizio, era prete porco, cupo, spettrale, trascorreva il suo tempo a mandare esposti contro canonico Floris, il quasi arciprete rubicondo che incarnava la Chiesa trionfante. Le sue querele facevano la fine di tutte le querele e questo rinfocolava il suo odio. Un raggio di luce parve aprirsi un giorno quando arrivò, dopo Monsignor Canepa, un vescovo continentale. La fama precedette coi suoi tamburi l'avvento di questo pastore e prete porco, nelle sue allucinazioni, non ebbe dubbio che egli fosse stato mandato proprio per lui. Infatti, dopo qualche giorno, il vescovo se lo chiamò perché i canonici gli avevano raccontato di questo prete riottoso che bisognava sospendere a Divinis. Egli si era riassettato alla meglio l'abito ed era andato trepidante all'episcopio. Il vescovo, che era un buon uomo, rimase colpito dalla magrezza del prete e gli rivolse parole amorevoli nel nome del comune signore. «Va bene», rispose lui, «ma canonico Floris è un farabutto e lei lo deve cacciar via». «Ma cosa dici, figliolo? Come puoi mancare così di rispetto a un superiore?» «Ho capito», aveva allora replicato prete porco alzandosi, «anche lei è un camorrista, come gli altri». Il colloquio era durato 5 minuti. Prete porco andò diventando sempre più spettrale e si racconta che piano piano si ammalò. Quando si sentì vicino a morire, una mattina si alzò, si vestì come poté e poi, trascinando le gambe, si mise in viaggio verso Santa Maria per la lunghissima salita attraverso il corso lastricato. Seguito dalla curiosità della gente, un passo dopo l'altro arrivò alla cattedrale. Voleva gridare a Dio, là, nella sua sede, l'ultima preghiera. Si inginocchiò davanti all'altare maggiore e nel silenzio risuonò la sua voce stanca. «Signore, vedete come sono vecchio e malato. Prendetemi con voi. Io non posso più nemmeno dirvi la messa perché non mi reggo in piedi. Signore, prendetemi con voi e per il bene della Chiesa prendetevi anche l'arciprete. Così tutto sarà pace». Don Sebastiano non sarebbe sceso quella sera nella stanza ravvivata dal caminetto e sarebbe andato a letto senza dare la buonanotte a nessuno. Aveva lavorato tutto il giorno e sul tardi gli si erano presentati 2 sposi per stipulare un contratto nuziale. Venivano da un paese della costiera e lui aveva passato da molto i 70, lei era una ragazza di 20 anni. Era accompagnata dai genitori, molto più giovani dello sposo, i cui abiti lisi denunciavano la modesta condizione. Don Sebastiano aveva ascoltato la volontà delle parti e aveva cominciato a scrivere, come sempre. Ma sentiva la mano pesante e la penna recalcitrava. Egli non era certo un sentimentale e ne aveva visto di tutti i colori. A un certo punto si era alzato, aveva chiamato nella stanza vicina, che era la sua stanza da letto, i genitori, e gli aveva detto: «Sono pronto a rimetterci la carta bollata, purché non vendiate questa vostra figliola». «Lei faccia il suo dovere», gli avevano risposto. «Dopo il bianco viene il nero». Ed egli aveva fatto il suo dovere, come sempre lo faceva. Come quella volta che gli era morto un disgraziato del quale aveva raccolto l'ultima volontà in favore di una povera donna che aveva tutta la vita convissuto con lui. Gli era morto prima che finisse di leggere l'atto ed egli non se l'era sentita di dichiarare un piccolo falso che pure avrebbe salvato dalla miseria quella donna. Non era un uomo crudele. È la vita che è crudele e il diritto esprime tutta la crudeltà della vita. Curvo sul giornale, Don Sebastiano, per la prima volta forse, da quando sedeva a quello scrittoio, ricordava le vicende della sua vita. Lungo le pareti si stendevano, chiusi negli armadi a vetri, i più che 100 volumi degli atti rilegati in marocchino, ciascuno coi numeri di repertorio stampati in nero sul dorso. Era la sua biblioteca, i soli libri che egli possedeva, ma scritti tutti da lui, giorno per giorno. Ne ripensava i primi, le fatiche immense durate, quando, solo notaio in tutto il circondario, doveva percorrere a cavallo decine di chilometri, guadando i fiumi, la carta bollata chiusa dentro tubi di latta che ancora conservava. Peccato che quei volumi fossero condizionati alla sua esistenza. Quando fosse morto, sarebbero venuti a portarseli via, perché gli atti dei notai morti vanno a finire nel pubblico archivio, come essi al cimitero. Don Sebastiano non era uomo da vivere nel passato, né da perdersi in inutili sentimenti. Il fatto era che quel giorno vi era stato un ennesimo litigio con donna Vincenza, provocato da uno dei soliti interventi che ferivano il marito, quanto più erano assennati. Don Sebastiano aveva creduto di tagliar corto con la solita terribile frase: «Tu sei al mondo perché c'è posto». Ma stavolta i figli si erano ribellati e avevano preso le difese della madre, onde egli si era alzato e se n'era andato sbattendo la porta. Era la prima volta che egli si sentiva esposto al giudizio dei figli, o forse era più giusto dire che era la prima volta che li incontrava, dopo aver dedicato loro tutta la sua esistenza. Ma che cosa volevano da lui? Che ne sapevano essi della vita, di questa invisibile ragnatela nella quale uno incappa come una mosca e non fa che divincolarsi per sfuggire al ragno che accorre dal centro dove sta in agguato? Che ne sapeva la loro madre, che da 20 anni non usciva più di casa? E che bisogno c'era di difenderla quando era lui che l'aveva sempre protetta e difesa? Quel giorno aveva attaccato la solita storia del salto di Orotelli, che era in vendita e che voleva che il marito comprasse, e invece egli trattava per favorire degli estranei. Era uno dei chiodi fissi che le angustiavano la vita. Cosa ne sapeva lei di quelle terre che non aveva mai visto e non avrebbe mai veduto? Erano terre povere, pietrose, ed era anche pericoloso mettersi in gara con la gente del posto. Così egli pensava. Non bastavano queste vigne che aveva costruito con le sue mani? Non bastava questa casa che per Nuoro era come una reggia? La verità che Don Sebastiano non voleva confessare era che la famiglia alla quale aveva dato tutto se stesso gli era rimasta estranea. Chi lavora come egli aveva lavorato ha diritto di essere amato, ma non ha tempo di amare. Alla radice di tutto c'era questo. Dalla famiglia egli aveva preteso una cosa sola, che perché non lo disturbassero nella sua opera e ciascuno quindi facesse il suo dovere come egli l'aveva fatto. Di qui la preferenza per gli altri che Donna Vincenza gli rimproverava, il dar torto ai figli nei litigi infantili, il subire l'attrazione degli estranei, specialmente di quei furbi di San Pietro che cominciavano ad inurbarsi e perciò gli stavano intorno, festevoli e devoti, come a un padrone. Donna Vincenza pareva nutrisse odio per tutti quelli che lo avvicinavano e dei quali si incantava. Era arrivata persino a cacciarli via di casa quando si presentavano, costringendolo a chiedere scusa, a dare della pazza a sua moglie. Ora, per quel salto di Orotelli, pareva che fosse la volta di Giovanni Maria. Era questi il figlio di quel Matteo, il fratello maggiore dei vecchi Sanna, che, come ho raccontato, a 20 anni aveva abbandonato Nuoro e la famiglia tra le maledizioni e a 90 esprimeva la certezza che il fratello Priamo, che gli era premorto, si trovasse nell'inferno e là attendesse la moglie. Nessuno ne aveva più sentito parlare. Ma un certo giorno, dopo 30 anni, era apparso a Nuoro un giovane tarchiato e con la faccia larga, quale i nuoresi non avevano, e neppure parlava correttamente la lingua di Nuoro. Si era presentato a Don Sebastiano chiamandolo zio. Era il figlio di Matteo, che voleva stabilirsi a Nuoro e darsi ai commerci. L'aveva mandato là il padre per fare le sue vendette? Tutto è possibile. Il fatto è che chiedeva assistenza al potentissimo zio e questi tanto gliel'aveva data che in poco tempo era diventato riccone col traffico delle mandorle e la ricchezza gli era andata in grasso perché pesava poco meno che 2 quintali. Era allegro, espansivo, buon tempone e aveva invaso la casa di Don Sebastiano come se fosse la sua, riempiendo i figli di giocattoli e di leccornie. Donna Vincenza gli aveva messo il soprannome di Milordo, che aveva fatto fortuna nel paese. Poi d'improvviso l'odio, la furia. Aveva capito che era diventato il rivale suo, dei suoi figli, che Don Sebastiano trattava quel salto per lui, stregato dalle sue moine. Allora tanto aveva fatto che lo aveva costretto ad andarsene, a non venire più per casa, mettendogli contro tutta la famiglia. Sempre così. E la casa, che poteva essere felice perché non mancava nulla, era per l'ostinazione di questa donna la più infelice di tutte. Egli si sentiva innocente. Nella notte incalzante gli giungevano dal caffè sul corso voci concitate e confuse. Erano i nuoresi che finivano nell'ozio la loro oziosa giornata. Se tendeva l'orecchio poteva riconoscere le risate e gli sghignazzi di ciascuno. Probabilmente si erano messi in mezzo maestro Manca e lo facevano bere, o Fileddu, quell'eremitano che aveva la mania, ma forse era bisogno, di stare attaccato ai signori e perciò era diventato lo zimbello di Nuoro. A quell'ora dovevano essere già un po' alticci, forse per il suo stesso vino che il caffettiere gli aveva comprato. Mai egli aveva voluto mettere piede in quella bettola signorile, mai aveva voluto confondersi con uno di quelli. Il suo breve riposo era la vicina farmacia, prima dell'imbrunire, ma era come non allontanarsi da casa, perché, conversando con Don Pasqualino o con Don Serafino, vigilava il portoncino e vedeva chi entrava e chi usciva. Non vedeva una triste figura che, appoggiata sul davanzale della stanza da pranzo, immersa nei suoi panni neri, guardava con gli occhi miopi i passanti sul selciato della via Asproni. Era lo svago che ogni sera si concedeva a Donna Vincenza, o meglio, era il suo modo di partecipare alla vita.